nel mezzo del cammino di nostra vita. Sono al primo canto e per finirlo non mi basterà una vita. Ma riassumendo ciò che ho appena letto, questo sviene ad ogni canto mentre perdo tempo qui a studiarlo. Guarda lo Mosè che non apre più le acque, ma la busta c'è posta per te. Da qui sotto non mi prende l'internet, che follia. C'è comunque più connessione della connessione Iliad. Partiamo dall'inferno con le anime dannate. Ci sono Paolo, poi Francesca, trovi anche Didone. Se scendi c'è chi è esagerato con il panettone. Ancora più in basso trovi Plutonone e mica il cane. In sto posto non c'è manco un ascensore. Ancora in basso trovo l'ira di chi ha fatto troppe scale. Ecco l'Epicuro, sono scettico, non son sicuro. Questo inferno è peggio del mio condominio. Se scendo ancora giù trovo le arpie, tipo le mie zie che al cenone mi chiedono se c'ho la fidanzata e come vado a scuola. Con il pullman, come vuoi che vada?